qualcuno di voi Ah. vuole riepilogare la scorsa volta? Vai Andrea. La scorsa volta ci siamo incontrati in questa taverna Gential perché c'era il primo incontro tra me, che sono il guerriero del clan Silverstone, e essenzialmente il mezzelfo, che sarebbe Gabriele, che doveva essere una sorta di consulente per trovare erbe particolari in territorio elfico. Giunti in taverna, viene provocata una rissa, da dei pescatori che riusciamo comunque a battere facilmente. Ci salta all'occhio il fatto che i pescatori feriti a morte vengono in qualche modo rapiti da una sorta di losco figuro che non riusciamo comunque con cui non riusciamo comunque ad avere alcun colloquio. E alle richieste di informazioni al proprietario della locanda, questo non sa dirci altro se non: questo arriva, paga, mi pulisce di eventuali cadaveri e a me va bene così. Dopodiché il padrone della locanda ci chiede di aiutarlo con un problema di infestazione di ratti in cantina. Quindi noi andiamo in cantina, uccidiamo i ratti, le cose si complicano quando compare da un ulteriore piano inferiore un ratto mannaro, essenzialmente. Uccidiamo anche lui e riappare di nuovo questo figuro che sembra rubare, trafugare i cadaveri in qualche maniera magica. Decidiamo quindi di andare a parlare col sindaco di Gential, il quale però è abbastanza, sembra abbastanza sottovalutare questo problema di eventuali non morti in città, perché pare ci sia un drago che disturba le comunicazioni e il commercio con le città limitrofe. Assaltando carovane e cose simili, assieme a un clan di coboldi. A questo punto ci offre dei soldi, 500 monete per occuparci di questo problema draghi e coboldi. Noi accettiamo e andiamo a dormire in locanda. Ok, riprendiamo da lei. E la mattina dopo, adesso avete passato la vostra notte lì e scendete nella sala comune della Siamo locanda. guariti? Sì, avete full rest, per cui avete recuperato gli eventuali punti ferita persi, slot di incantesimi usati e tutta quella roba bella. Ok, quindi torno su di Scendete uno. nella stanza comune della locanda e. Posso capire chi è che stava picchiando la tastiera nel frattempo? Scendete nella sala comune della locanda, vedete che non ci siete soltanto voi quattro come viaggiatori. Altra rissa, altra rissa, altra rissa. Ok. Che guerra femminile. È arrivato un altro viaggiatore, non sapete se è arrivato nottetempo, e c'è un gnoma lì. Quindi Ele, se vuoi presentare il tuo personaggio. Presentare in che senso, ragazzi, perdonate Come l'aspetto ti chiami? fisico. Come Cosa sei fatto? vedono? Che impressione hanno? Ok, un gnomo, quindi piuttosto basso, 3,5 piedi, magrolina, piccola, giovane anche, tra i 20, 25, 30 anni, insomma, capelli castani, occhi chiari e pelle scura. In realtà sembra titubante. È presso l'ingresso, non è ancora entrata del tutto e si guarda attorno in maniera piuttosto guardinga anche. Tu sei approdata questa mattina a Geltial Sì. avendo preso, avuto passaggio su un peschereccio della zona, e hai subito sentito rumors, che non so dire in italiano, della situazione che hanno qui attorno col drago. E ti hanno subito detto, una guardia che ha incrociato, che c'era già un gruppo che stava, si era offerto di occuparsene e l'avresti potuto trovare qui alla taverna. Ok. Aspetta, okay, c'è paura? Scendendo le scale comunque sono già equipaggiato con armatura e lo scudo dietro le spalle e le asce dovrebbe sulla destra, le asce da lancia, quindi sulla sinistra la mia ascia. Non noto l'agnoma perché mi dirigo direttamente verso la zona colazione, diciamo, quindi proseguo così a camminare senza badare altro. Ok, hai intenzione di bere o mangiare la tua colazione? Entrambe. Davvero nano, dovresti dire solo bere. Sono un nano, ma mangio anche. Ok, è tutto pagato, vero? Cos'è, tipo buffet? Adesso ci ingozziamo come il sushi, no, walk? Beh, c'era stata pagata la notte, quindi magari la colazione è pagata. Potete chiedere. Beh, la mezza pensione prevede anche la colazione, non facciamo scherzi, che noi dobbiamo andare a salvare la città. C'ha ragione il mezzelfo qua. Il menù della colazione non prevede niente di che. Hanno, come si chiama il porridge in italiano? Avete presente cos'è il porridge? Pappetta di cereali, si chiama in italiano, sì. Pappetta schifosissima, esatto. Hanno quello inglese, esatto, hanno quello, hanno della birra e bottiglie, cioè alla fine è una taverna che ha anche delle stanze. Beh, quindi io mi berrò della birra, mi mangerò giusto un pochettino di porridge, ma poco, perché non vorrei ingrassare. Ordino una birra invece, la linea non siamo. Se mettiamo tutti i porridge vicini e se stanno all'interno di un piede cubico, posso dargli un po' di sapore con il mio cantrip della prestidigitazione, così perché non faccia proprio schifo. Ok, mentre loro sono lì che cercano di bilanciare le loro quattro scodelle di porridge per farle stare in un piede cubo, tu cosa fai? Dunque, io non ho capito l'ultima parte della cosa che tu hai detto prima. Ha sentito, il personaggio ha sentito dei rumors, allora, per sì, riguardo sì, a, però chi arrivata, è, che, come identificare? Sì. No, appunto, quando sei arrivata al porto, sentivi che parlavano del fatto che ci fosse un drago che creava dei problemi nella zona e hai chiesto ad una guardia se fosse vero, te l'ha confermato e ha detto che c'è una taglia sul drago e che appunto un gruppo di avventurieri si era appena preso carico di provare a dare caccia a questo drago e alloggiavano qui a questa taverna. Ok, quindi niente di... Dunque, Rowyn guarda, nota ovviamente i quattro figuri non appena arrivano, e da prima li osserva per qualche istante, poi pian piano si avvicina e ad un certo punto si rivolge al più vicino, non so chi sia, però tutto sommato alta voce, facendo sentire un po' a tutti quanti, domandando effettivamente se conoscono gli avventurieri che andranno a cacciare il drago. Può darsi, chi è che lo chiede? Qualcun altro deve dire qualcosa? No. Ok, soltanto un gnomo curioso. C'è la gnoma che sta chiedendo in giro chi sta andando ad uccidere il drago? Sì, sta chiedendola a voi. Sta chiedendola a noi. Sì. Ci siete solo voi nella sala cupola della taverna. Ah, siamo tipo solo noi. Le 8 del mattino, la gente non gli è altri al bar ancora. Stanno smaltendo la sbocca. Io vorrei dirle sì, che noi siamo quelli che stanno per andare ad uccidere il drago e che ogni donazione è benvenuta. La onlus degli ammazzadraghi. La risata c'è. Però, no, purtroppo denaro da darvi non ne ho. Però posso... posso offrirvi il mio piccolo aiuto e prometto di saper badare a me stessa e di non creare troppi guai. Tipo, cosa sai fare? Ho qualche piccola nozione di magia, qualcosa che ho imparato dal mio mentore. Tipo? Saper curare, saper colpire? Oh no, no, nulla di tutto ciò. Però posso aiutarvi nel provare a non apparire ciò che siete. Ah, quindi mi risparmi un'abilità. Sono piccola e non posso combattere granché bene, però posso aiutarvi a nascondervi, a trovare cibo durante il vostro viaggio. Abbiamo già fatto il pieno, ok, perfetto, ma può sempre tornare utile. Ma mi interessa la questione illusione. Cioè, in grado di far modificare gli aspetti? Aspetta che ho un attimo di problemi. Aspetta un attimo. Cioè, nel senso, a parte l'utilità di trasformare questo affascinante mezzelfo in un affascinante elfo e farla finita con questi brutti razzisti, siccome stiamo per andare in mezzo ai coboldi, la gnoma è piccolina, potrebbe mimetizzarsi come coboldo per scoprire qualcosa. Sì, in questo sono piuttosto brava. Oh, posso aiutarvi anche a nascondere voi stessi. Ottimo, immagino che tu sappia parlare il draconico, vero? Ma ovviamente no. I coboldi parlano draconico tra di loro, è un po' difficile imbrogliarli. Il draconico è la base in questa zona, cioè non capisco come hai fatto a sopravvivere finora. No, più che altro io vorrei chiederle se ha da dove sia arrivata e se per caso ha visto effettivamente il drago qua nella zona. Oh no, no, io non ho visto niente, vengo da un viaggio, io non sono di questa città e vi sono approdata per puro spirito di esplorazione, però nel momento in cui sono arrivata qui ho appreso della presenza di questo drago, quindi non so nulla. Bene. Come ti chiami? Roywin. Roywin, appunto. Roywin, ok. Tu via. Vabbè, non so, te lo sei inventato tu perché c'hai la pronuncia del cazzo, però. Sai niente dei nostri amici non morti? Se ha detto che è appena arrivata, probabilmente non ha oggi. Ah, quindi non ha ancora assistito a nessuna uccisione? Dovremmo spiegarle cosa succede? Non da qualche anno a questa parte. Praticamente ci è capitato che uccidendo un ratto mannaro che ci ha attaccati, e due il cadavere di questa creatura è stato trafugato magicamente da un non saprei descrivere che cosa fosse, una creatura umanoide che apparentemente usava molto bene la magia. Il mio sospetto è che li voglia prendere possesso di questi corpi per creare dei non morti e usarli, diciamo, non per scopi pacifici. Però su via potrebbe anche essere. In questo momento pare che il problema più grosso e più immediato sia questo drago che disturba il commercio, l'import-export verso questa città portuale che è piuttosto importante. al che l'oste, che è lì che fondamentalmente non ha niente da fare perché sono le 8 del mattino e ci siete sotto voi, appunto interviene e vi conferma appunto che anche lui ha avuto problemi per il drago, perché ad esempio i suoi rifornimenti di birra dipendono dal clan Silverbrine e di recente non sono più arrivati rifornimenti perché le strade non sono sicure, e quindi i nani diciamo che tendono ad ignorare un mercato così piccolo come Gential piuttosto che rischiare i loro mercanti e la loro birra. Sì, capisco. Secondo me, quindi è prevista una ricompensa dal Silverstone, che è molto più saporita. Sapevo. E quindi potrebbe essere anche una ricompensa se aiutiamo in modo che riprenda ad arrivare alla taverna, no? Noi abbiamo, io e gli altri mercanti qua della zona abbiamo dato dei soldi al sindaco per mettere in piedi la taglia. E i vostri politici non hanno risolto niente, capaci solo di mangiarsi i soldi. Hanno assunto voi. Ma esatto, che avido questo mezzelfo. Ma avresti dovuto venire direttamente a lui, di capire che lo picchiavano da piccolo. Ha avuto un'infanzia difficile. Ma questo è tutto in gioco, vero? Certo. Appunto, okay, vi ricordate che il sindaco e la guardia che c'era con lei, Jonah, vi aveva anche parlato del fatto che il prete della zona potesse avere delle informazioni utili riguardo il drago. Sì. E non è non morti, di solito i preti non fanno. Provare ad andare a parlare col prete e poi eventualmente dirigerci verso ovest per capire se questa tribù di coboldi ha qualche punto debole e eventualmente intrufolarci al suo interno. Il prete dove lo troviamo? Oltre a me chi parla draconico qua? Oltre a me chi parla draconico qua? Chi ha le campane in camera? Questo è Pietro. Me lo sto domandando anche io. Sempre io. No, sono. Io non parlo draconico, ma penso che parli soltanto te draconico qua. Cioè, l'unico che può interagire con sti coboldi e sto drago diplomaticamente potrei essere io, Venone. Ma i coboldi che parlano, scusa? Comune e draconico, credo. Beh, se parlano comune ci possiamo parlare tutti. Ma io sono caotico. E quindi anch'io sono caotico. Io gli parlo in draconico, ascolto cosa mi dicono e lo tengo per me. Gli fai una super cazzola e lo freghi. Lo faccio anche nell'altra campagna. Si tiene per sé le cose. Se diciamo che gli elfi sono il male, e se noi cercassimo di andare d'accordo col drago? Una cosa per volta. Bisogna vedere se il drago è intenzionato ad andare d'accordo con noi, prima di tutto, che potrebbe essere un problema più importante. Dobbiamo risolvere il problema in qualche modo. Risolverlo uccidendo il drago è un modo, risolverlo costringendo il drago a non attaccare più le carovane è un altro modo. E cercare di risolverlo convincendo il drago che sarebbe opportuno attaccare i non morti? A quello ci pensiamo, andiamo a parlare con questo prete potrebbe anche ascoltarci sul problema non morti invece di ignorarci. Ok, trotteliamo da sto prete. Vedete a cosa vi servo nella compagnia? Vi serve un po' di sano cinismo. Vi serve dell'altro cinismo? Sì, il cinismo di uno che vuole solo soldi. Le state proponendo delle cose gentilissime, insomma. Ok. Allora, chi è legale qua? Nessuno. Io sono perfetto. È legale. E quindi dov'è il problema? Però siamo buoni. Sì, vabbè, però io sono caotico, no, legale. Tu hai l'incarico da parte del sindaco di uccidere il drago, hai l'obbligo morale, sempre legale. Io non ho detto che ucciderò il drago al sindaco. Non ho mai detto che ucciderò il drago, ho detto che risolverò il problema che ha il commercio. Ma chi è che... Che soffia. Che si scioscia il naso. Questo è Zacco che sta soffiando il naso. No, no, no, non sono io. Ah. Non sono io, sto giro non sono io. Ma ad esempio tu hai un accordo con il sindaco che possiamo violare tranquillamente non essendo legali. Ok, bene, andiamo ad questo prete. Lost è sempre più preoccupato da quello che stavate dicendo. Sì, beh, quelli che sono bravi e buoni, gli elfi, non hanno risolto ancora niente. Adesso andiamo io do una pacca sulla spalla. Posso domandare all'host in mano a chi mi sto mettendo? Perché insomma, anche io sono un po' perplesso. Ti guarda e scuote la testa. Grazie per l'aiuto. Io gli do una pacca sulla spalla. Comunque, vi dice che il tempio si trova nella zona del porto. È uno degli edifici un po' più stabili, non è proprio un tempio come quelli che fanno gli elfi per le loro divinità. Questo è un tempio per il dio del commercio umano e sorge appunto lì vicino al porto, perché per lo più ci vanno i pescatori e la gente povera per chiedere protezione quando lavorano. Quindi è il tempio del dio del commercio. Kolkorran, dio del commercio. Commercio uguale soldi. Commercio uguale soldi, povera, però visto la posizione è più un proteggi quelli che provano a commerciare che soldi. In questo caso. Potremmo avere buone informazioni, insomma. Per me trovo delle chiacchiere da condividere. A me viene in mente una... Prima di parlare di non morti a un prete, potremmo anche entrare nell'ottica che potrebbe essere il prete a fare queste cose, quindi parliamogli del drago innanzitutto. Ma infatti magari non è necessario parlargli né dell'uno né dell'altro, andiamo, vediamo un po' che cosa si dice e facciamo parlare. No, ci è stato detto effettivamente di parlare con questo prete perché avrebbe potuto avere informazioni sul drago e sui coboldi. Andare alla cieca quando possiamo avere delle informazioni in più non ha senso, secondo me. Sì, no, ma infatti andare dal prete è dopo, però ciò che intendo dire è che magari prima di porgli qualche domanda guardiamoci attorno, vediamo un po' che cosa dice lui, magari escono fuori informazioni che possono farci evitare dettagli che a lui non farebbe piacere dire. Vabbè, ma tanto non abbiamo nessun dettaglio su questo drago, quindi... Cioè, dei non morti non accenniamogli. Anche semplicemente il fatto che stiamo andando lì, che stiamo andando noi verso il drago, cioè chissà che cosa è interessante. Beh, se lo sapevano al porto che siamo stati ingaggiati per risolvere il problema, facilmente lo sa anche già il prete. Ci hanno visti in faccia? Cioè, il prete ci ha visto a in noi, faccia? Beh, insomma, siamo quattro persone, di cui due con un'armatura pesante. Diciamo che siamo sospetti. Magari potrebbe andare soltanto le armature si possono nascondere, si può andare si può andare soltanto in pochi, insomma. Intanto avviamoci e ragioniamo sulla strategia strada facendo. Andiamo a vedere questo tempio intanto. È un dio, una divinità umana, hai detto? È una divinità del panteon umano, sì. Ok. Fammi solo salvare questa immagine che ve la devo far vedere tra poco. E dove ce la farai vedere? Qua su Roll20. Devo soltanto gli elfi tollerano sta roba? Sì, gli elfi non hanno nessun problema col fatto che altri abbiano altre religioni. Loro hanno la loro, che è fondamentalmente un diciamo culto degli antenati e della saggezza degli antenati, ed è in parte legato al fatto che comunque gli elfi vivono molto a lungo e tendono a dare posizioni di potere e di prestigio ai più anziani delle loro comunità, perché si aspettano che appunto abbiano maturato una sana dose di saggezza nel tempo. E di conseguenza, subito sopra agli anziani ci sono i loro antenati, che non solo hanno avuto la saggezza nella vita, ma nella loro religione li vedono come abbiano iniziato ad acquisire la saggezza pure dell'aldilà. Però appunto non hanno nessun problema col fatto che gli altri seguono altre divinità, ecco, altre religioni. Da quel punto di vista sono abbastanza aperti e illuminati. Quindi in tutta la città vi è un unico tempio? E questo è il tempio dove vanno tutti. Il culto degli antenati, a parte alcune celebrazioni pubbliche, festività, diciamo, è una cosa più fatta all'interno della casa, del nucleo familiare, per gli elfi. Ma nessuno ci va, nessuno se ne occupa, ok. Hanno un clero che appunto è responsabile per le celebrazioni, eccetera, però in genere le persone non è che vanno a messa, ecco. Pregano per i fatti loro e più c'è il clero che sta lì. Questo branco di eretici. Ok. Andiamo avanti, allora. Ma avete lasciato le vostre colazioni là, non lo mangiate quella schifezza? Io ho mangiato. Penso che l'abbiamo già mangiata. L'ho anche insaporita con la magia. Di birra ci vuole poco. Per quanto facevo schifo. Quella birra era meglio di quella dell'altra taverna. La mia pinta mattutina l'ho bevuta. Questa era birra vera. Il clan Silver, rispetto a quella del clan Silver, Brian. Però, vabbè. Vi dirigete verso di nuovo il quartiere del porto, la zona dei pescatori, dove c'è il tempio che vi hanno detto. Quando arrivate dovete fondamentalmente chiedere conferma che quello sia davvero un tempio. Sembra semplicemente una casa un po' più grande delle altre, un po' meglio tenuta delle altre. Una cosa che la contraddistingue è che c'è questo simbolo che dovreste vedere tra poco, che sto caricando. Questo simbolo sopra la porta d'ingresso, la porta che è avvicinata, cioè non è chiusa, dovreste vederlo adesso su Roll20. No, non lo vedete? No, no. Dovrebbe comparire sulla posta della mappa, penso, in mezzo alla mappa. Sì, io lo vedo. Sì. Mio fratello no. Mica, io no. Sì, sì. Aspetta. Io ora vi dico. Non vi devo spostare. Cosa devo? Okay. Riavviare? Aggiornare? Come funziona? No, dovresti vederlo, basta. Io vedo la mappa normale con sto fiume. Tipo mio fratello non vede neanche tutta la mappa per qualche motivo. Aspetta. Fai F5. Una cosa, io non ho domandato, mi ho completamente dimenticato di domandare. Sì. Avevo letto il fatto degli slot per gli incantesimi. Il problema è che io non ho trovato, probabilmente per mia disattenzione, quanti slot ci sono al primo livello, e per cui non ho preparato gli incantesimi, mi rendo conto. Allora, tu ne puoi preparare un numero pari al tuo livello, quindi uno, più il tuo modificatore di intelligenza, che non so. E quelli sono quelli preparati. Tu ne puoi lanciare due di livello 1. Due o tre. La tua intelligenza. La vedi adesso l'immagine. Character sheet. Io non vedo ancora niente. Il tuo modificatore di intelligenza. Tu riavvia. Fai F5 sulla non pagina. Ti sei messa, sì. Non ti sei messa. E via, io adesso la vedo. Le statistiche. Allora. Cazzo. Aspetta, lo facciamo al volo. Gnomo delle foreste vuol dire che hai due di intelligenza e... Oh, eccolo. Mi pare nient'altro. No, un'altra cosa. Destrezza costituzione. Destrezza costituzione. No, mi pare che quello è l'altro tipo di gnomo. Che io ricordo, io ho soltanto i due in più a intelligenza e poi avevo il cantrip gratuito. Uno delle due. Foresta, vero? Prima vado a guardare. Sei il gnomo della foresta. Sì. Ok. Corpo. Aspetta. Mi avevi scritto le tue proficiency. Sleight of Hand, Stealth, Investigation, Insight. Sleight of Hand, Stealth. Uno. Investigation, Insight. Ok. Quelli sono a posto. Ora, se tu vai a vedere nella scheda, nella pagina del spell, te ne ho già messa io qualcuna. Aspetta un attimo che non mi sto orientando. Spell dove? Nella tua scheda. Io leggo soltanto bio and info character sheet. Character sheet. Ok. Lì hai la cosa col nome del personaggio, la razza, eccetera. Aspetta, sulla... non vedo più niente perché mi si sono ingranditi i vostri quadrati perché siete tanti. E dove? Verso il basso? No. Ah. Allora, aspetta. Facciamo una cosa alla volta. Vai dove c'è la chat. Ok? Qua, sì. Di Roll20. In alto a destra clicca su la rovellina My Settings. Aspetta, ma sempre su Roll20? Sempre su Roll20, sì. Ah. Sì, ok. Ora, scrollando giù, mm-hmm, c'era la dimensione. Sì, al fondo c'è il video player avatar size. Esatto. Tu metti names only. Metti names only, sì, così non vedi più i quadratoni. Cosa non vuoi? Names only. Ah, ecco. Okay. Poi torna sulla tua scheda. Yes. Sei nel character sheet? Sì. Ok. Sotto, cioè, ci dovresti avere una casella lì dove c'è scritto wizard, dove adesso ti sto scrivendo Forest Gnome, background urchin, se non ricordo male. Sì. Ok. Lì sotto vedi tre pulsanti, core, bio e spells. Sì. In questo momento quello eliminato è core. Tu vai spells, esatto. Come vedi te l'ho già aggiunta qualcuna di quelle che avevi scelto. Sì. Ora, se tu vedi, prendiamo quelle... Allora, i primi sono i cantrip. Ok, i cantrip ce li hai sempre. Sì. È a posto così. Ti manca Firebolt perché non ce l'avevo già pronto, te lo devi... Esatto. Aggiungere. Se tu vai, vedi i cantrip di livello 1, anche qua te ne manca uno perché non ce l'avevo già pronto da copiarti, e vai, ad esempio, dove c'è Charm Person. Se tu passi sopra col mouse... E sì, ti appare una rotellina di fianco sulla destra. Sì, sì. La clicchi. Ok. E vedi che c'hai una checkbox per dire se l'hai preparato o sì, meno. Ok. Sì, ok. Di fianco al nome. Di fianco al nome. Sì, sì. Scegli se l'hai preparato o meno, poi riclicchi la rotellina. Di questi 5 tu ne puoi preparare 4. 4, sì. Sì, 4. Aspetta, fai solo vedere una roba. Ok, dovrebbe averne 6. Sì, le manca Find Familiar, però ne può preparare 4. Find Familiar non ce l'avevo nel compendio. Ok, quindi scegli quale di questi 5 non vuoi avere preparata. Ma direi Silent Image. Ok, allora lo levo. Quindi tu c'hai quei 4 preparati che hanno il pallino rosso, pronti. Okay. Quando ne vuoi lanciare uno, da questa pagina gli clicchi sopra. Tipo adesso ho cliccato su Shield e compare la descrizione dell'incantesimo nella chat. Ok. Quando ne hai usato uno, sempre nella pagina delle spell, vedi che c'hai livello 1, c'hai 2, che sono quanti ne puoi lanciare, e poi c'è 0, perché non hai ancora lanciato nessuno. Quando ne lanci uno ti aumenti quello zero in maniera da segnarti quanti ne hai usati. Ok, adesso, ma... no, scusami, vai. No, a livello 1 tu dovresti avere comunque Arcane Recovery col mago. Sì, sono Arcane Recovery. Che ti dà... Sì. Della roba. In particolare... In particolare vuol dire che durante uno short rest tu puoi recuperare anche degli slot incantesimo, invece che solo durante il long rest. Però vabbè. Ok. Adesso non ti preoccupare di quello. Ok. Hit point segnati. Sì, il resto già va. Ok. Avete visto tutti il simbolo? Sì, sì. Okay. Quello appunto lo vedete lì sulla porta e appunto come vi dicevo l'unica differenza tra questo edificio e le case attorno è che è un po' meglio tenuto, cioè da fuori vi dà l'idea che dentro ci saranno meno scufferi che passano tra le assi che formano le pareti. La porta è appena avvicinata, quindi potete entrare liberamente. E dentro c'è un umano vestito con abiti clericali, diciamo, abiti leggeri, relativamente basso per un umano, cioè non arriva al 1,60 m, cioè poco più di 1,5 m, parecchio con la pancia, pelato, che appena vi sente entrare si gira, era lì che trafficava sopra un altare di legno, e si gira verso di voi e vi dà il benvenuto, vi viene incontro sorridendo e vi dice di accomodarvi fondamentalmente nel tempio. Posso fare un tentativo per religioni, per capire se è tutto in regola, se non è un impostore o roba del genere? Sì. Okay, 24. Capisco qualcosa? Sì, allora, lui ha delle vesti addosso che sono vesti normali di taglio, diciamo, clericale, con anche lì il simbolo della divinità cucito in diversi posti. E ti aspetteresti che i templi di questa divinità siano un po' meglio adorni, un po' più ricchi, essendo una divinità del commercio, ma d'altro canto non è un sai che non è una cosa così comune in questa regione un po' povera che i templi siano dei templi come Cristo comanda, cioè dei templi che appunto che possono permettersi decorazioni di un certo tipo. Qua la comunità è molto povera. Sì, dimmi. Posso fargli notare che questo tempio è un po' sguarnito. Certo. E poi gli allungo una moneta d'oro come offerta per ben disporlo verso di noi. Poi dite che non sono generoso. Lui ti ringrazia molto e ti dice che il tempio è nelle condizioni che si può permettere la comunità qui e che si possono permettere i fedeli che vanno a pregare. Difficilmente i fedeli riescono a fare molte offerte. Vanno a chiedere protezione per il loro lavoro, e per la pesca, per il commercio che fanno qua lungo la costa, ma difficilmente hanno abbastanza soldi di guadagno, diciamo, da poter fare delle offerte consistenti. Cioè anche lui dipende più dalle offerte delle persone della zona ricca, che comunque non vengono qua a pregare, piuttosto che da quelli dai suoi fedeli davvero, che sono quelli della zona povera. Ah, bene, almeno sarà ben disposto verso di noi. Adesso qualcuno vuole interrogarlo per quanto riguarda il drago. Ci avevano detto il nome di questo prete? Sì, ve l'avevano detto. Si chiama Cecil. Cecil. Ah, caro Cecil, ci sono novità in questa città? Qualcosa di interessante che succeda? Essendo il tempio del dio del commercio, dovrebbe raccogliere le chiacchiere dei commercianti che passano? Sì, più che altro qua vengono i pescatori, cioè i commercianti, nel senso, quando approda la nave mercantile, il capitano di turno difficilmente si ferma qua al tempio. Qua si fermano i marinai, la ciurma, diciamo, che lavora per il mercante. Ma i marinai raccontano tante cose divertenti, ma anche interessanti, anche se magari non del tutto vere. Infatti dice, al di là delle solite storie di sirene o di enormi mostri marini, e microchip. Ultimamente parlano tutti del drago che imperversa nelle rotte a ovest. E oh mio Dio, un drago? Da quando c'è un drago qua? Quindi è vero. Sì, è vero, al punto che il sindaco ha messo una taglia sul drago, perché sta dando problemi non solo al commercio via mare, ma anche al commercio per le rotte via terra. Cioè siamo fondamentalmente stati tagliati completamente fuori dal commercio verso il clan Silverbrine, verso Easting e verso le altre zone a ovest di qua. Ma è successo in un caso da settimane ormai, cioè i primi problemi si sono avuti qualche mese fa, ma sembrava che fossero soltanto le periodiche scorribande di coboldi o altri mostri. Poi effettivamente i racconti di avvistamenti di drago sono diventati talmente tanti che non potevano più essere ignorati. Ma quindi secondo lei questi coboldi sono effettivamente collegati con le scorribande del drago, nel senso una tribù di coboldi sotto il comando del drago? Non è così insolito e sarebbe molto più strano che fosse una coincidenza, mi dice. Sì, può dirci qualcosa in più, magari qualcosa che non si sente nelle voci normalmente su questo, su queste aggressioni? Direttamente sulle aggressioni non vi so dire molto di più, dovreste parlare con Jonah. Con Jonah, lo trovate spesso dal sindaco, il capo delle guardie. Sì. Lui so che si era molto più interessato, aveva investigato la zona. Quello che so è che c'è una leggenda che mi è venuta in mente quando hanno iniziato a parlarmi di questo drago, perché questa leggenda parla di un artefatto, di una spada magica nel Bosco Smeraldo, che si trova appena a ovest, qua, fuori dalla città. Mezza giornata, una giornata di cammino. E la leggenda è molto vecchia. E pare che siano fatti storici, nel senso, mi sono stati confermati da degli elfi che loro tendono a dare parecchia importanza al loro passato. Qua, secoli fa, durante l'espansione dell'impero elfico, pare che ci fosse questo capitano degli elfi, di cui il nome si è perso nel tempo, che si innamorò di una fata in quel bosco, e però gli ordini che aveva la sua legione erano di abbattere quasi interamente il bosco per avere materiali che servivano per le fortificazioni della zona. A quei tempi gli umani che erano qua erano barbari, popolazioni selvagge, e quindi appunto gli elfi avevano bisogno di fortificare le loro posizioni. E però appunto il capitano, questo capitano elfico, che la leggenda dice che fosse un famoso cavaliere, si rivoltò e uccise il suo generale e poi scomparve in quel bosco. E secondo la leggenda, appunto, dopo aver ucciso il generale, abbandonò la spada che aveva usato lì, su un'isola che c'è in uno dei laghi che ci sono nel bosco. E appunto, come vi dicevo, questa storia mi è stata confermata, se si può dire confermata, da degli elfi con cui ho avuto a che fare. Pare che siano davvero dei fatti storici. E non era mai stata... Non, nessuno è mai andato a cercarla, possibile, se sono fatti storici. Ma gli elfi non hanno mai avuto gli interessi, perché è vero che all'epoca non era raro che gli ufficiali dell'esercito avessero armi magiche, e proprio per questo quel tipo di arma non è molto raro nell'esercito degli elfi. La gente comune qua non ha tempo da dedicare ad andare in un bosco infestato di ragni a inseguire una leggenda. Qua è gente pratica, non gente che bada alle storie. Però non ho esattamente capito il motivo per il quale il capitano si è rivoltato contro il suo generale. Beh, secondo la storia, appunto, essendo che il capitano era innamorato di questa fata che abitava nel bosco, non voleva distruggere l'abitazione, ecco. Mentre gli ordini del generale erano di abbattere la foresta per prendere il legname. Ma torniamo invece al drago e dai coboldi. Sì. Queste aggressioni sono... Cioè, la conseguenza di queste aggressioni sono uccisioni o più che altro furti di merci e materiali? Entrambe. Cioè, nel senso, questi coboldi sembrano interessati a rubare o a uccidere per il gusto di farlo? Diciamo che entrambe. Nel senso, sono stati ritrovati i corpi di delle guardie dei carri di mercanti, spoglie delle loro armi, e non sono state trovate tracce delle merci o dei mercanti. Per cui neanche dei mercanti? No. A volte si è trovato il cadavere, a volte no. Sembrano interessati a tutto, fondamentalmente. Cioè, da quello che so io dei draghi, sono comunque creature che vogliono accumulare ricchezza, per cui non sarebbe sorprendente se, come penso effettivamente, questi coboldi lavorano per il drago, che rubino per portare al malloppo del drago, al bottino del drago. Bene, voi avete qualche altra cosa da chiedere o possiamo provare ad andare verso ovest? Il fatto che il drago sia un intralcio per il commercio, e quindi se noi andiamo a sistemare la questione del drago, sarà contento anche il dio del commercio, no? Può cacciare qualche benedizione così di anticipo, il benvenuto per noi? Devo trovare il manuale giusto per rispondere a questa domanda. Facciamo come i Blues Brothers, se in missione per il libero commercio. Ma allora, sicuramente. La gratitudine del commercio quanto è sostanziosa? Beh, col Corran sicuramente vi sarà grato, ma io non ho il potere personalmente di offrirvi... Neanche una mezza benedizione, tutte quelle cose che solito fanno i templi. Posso offrire una benedizione, ma non so quanto sarebbe duratura, non so quanto vi aiuterebbe nei vostri viaggi, ecco. Ah, poveri, noi dovremmo arrangiarci come sempre, va bene. Ci basta una buona parola, una preghiera e ci passeremo di qui, torneremo a darvi, ecco, per la sua disponibilità e utilità, e speriamo di poterle dare buone notizie al più presto. Lo spero anch'io. Prima di avviarvi vi consiglio di andare di nuovo a parlare, se non l'avete già fatto, con Jonah per sapere di più sui coboldi, perché lui comunque è il capo delle guardie e in passato si occupava, appunto, era un ranger, cioè faceva guardia alle vie commerciali tra diversi villaggi e paesi in questa zona, quindi sicuramente conosce la situazione del territorio, diciamo, meglio. Sì, certamente, infatti l'idea era passare a trovare anche lui per capire un po' se avesse delle dritte da darci. Ok, ciao Ciri, ancora, arrivederci. Il nome è Ceci, no, è stato un piacere. Ah, Ceci, no. ti sorride comunque perché gli hai dato una moneta d'oro prima. Moneta d'oro, ecco, bravo. ma non letale. Ma il Jonah non poteva parlare già ieri sera, dove sta Tiri Terra? Abbiamo anche mostrato la cosa. Ieri sera, in effetti, quando siamo andati, prima di andare alla taverna, ci raccomandò di passare anche a lui perché avrebbe avuto informazioni su come raggiungere in maniera un po' più, diciamo, un po' meno vistosa l'accampamento dei coboldi. Ah, è come nella casa che rende folli di Asterix, tutti da Jonah adesso. Andiamo. Quindi volevi dare la colpa, in realtà siete voi che non vi siete ricordati la cosa. Jonah lo trovate nuovamente alla residenza del sindaco, nel centro del quartiere, diciamo, ricco di gente. Com'è che si chiamava sta sindaca? Amalia Rodriguez, no? Cos'era? Non era Amalia Rodriguez. Non era Amalia Rodriguez, era Anissa Elsinor. Siamo là. Si uguale più o meno a Amalia Rodriguez. Suona proprio uguale. È identico, se l'hai ricordato in maniera eccellente. Beh, andiamo da Giona, vediamo da Giona. Se sei impegnato. Lo trovate lì che sta fondamentalmente ricevendo un rapporto da due guardie. E quando vi vede arrivare, diciamo che taglia corto con gli altri due uomini e vi si avvicina e vi chiede se siete ancora intenzionati ad andare a seguire questo drago. Beh, sì, noi siamo venuti qui apposta perché ieri sera ci hai detto di avere, che avresti avuto delle informazioni probabilmente utili per raggiungere in sicurezza l'accampamento dei coboldi, quantomeno. Sì, stavo giusto parlando con due miei uomini che avevo mandato ad esplorare un attimo com'era la situazione. Pare che questa tribù di coboldi si sia insediata a Forte del Martello dei Campi. Questa è una fortezza, al Forte del Martello dei Campi. Non mi dei chiedere, campi. Sì, non mi chiedere perché l'hanno chiamato così gli elfi che hanno costruito il forte. Sto per chiederlo. No, perché sono elfi, che domande. Esatto, probabile. Comunque, non dite al sindaco che ho detto questo. È una fortezza quanto che ci è stata... dai? È una fortezza. Ti guardo dritto negli occhi e continua. È una fortezza che è stata abbandonata qualche anno fa, 12 anni fa più o meno, fondamentalmente perché era sovradimensionata per le necessità di questa zona. Era ah, troppo... no, perché è un nome cretino. No, era troppo costosa. Era troppo costoso mantenere un reggimento là, soprattutto considerato che non ci sono grandi villaggi nella zona. Ora, in realtà era qualche mese che si pensava di rimetterla in uso, ma appunto adesso c'è questa tribù di coboldi. Ora, la fortezza si trova appena a sud del Bosco Smeraldo, nella zona ovest del bosco. C'è una strada che ci arriva da Gential direttamente, ma da quello che mi hanno detto i miei scout non vi conviene passare da lì, perché ci sono parecchi appostamenti dei coboldi lungo la strada. La via migliore probabilmente è cercare di raggiungere la fortezza dalla foresta direttamente, quindi con la copertura degli alberi, e appunto cercare di approcciarla da nord, dove dovrebbe essere meno difesa. Dico dovrebbe perché comunque nel bosco ci sono dei ragni giganti, ci sono sempre stati ragni giganti, altre creature del genere che rendono improbabile il fatto che i coboldi abbiano una grossa presenza difensiva da quella parte, ecco. No, non poteva essere un bosco, no, con gli unicorni che vomitano arcobaleni, no, con i ragni giganti. No, quelli non li abbiamo in questa zona. Beh, i ragni giganti quelli che si mangiano gli unicorni, non è che... Ma ti si sente proprio, Sì, sì, ti si sente molto basso. Sì? Sì. Vabbè, è così. Questo bosco c'ha qualcosa di particolare oltre ai ragni giganti, del tipo c'è la driade che fa scherzi, è un bosco maledetto, è un bosco antico, ci sono dei silvantropi, si chiamano così. C'è una leggenda che me ne aveva parlato il prete in questi giorni, che diceva che appunto c'erano degli artefatti magici, una leggenda, qualcosa su la vecchia espansione dell'impero. Può darsi che ci siano ancora le fate, se c'erano davvero, come dice la leggenda. La cosa che so io di sicuro è che appunto ci sono questi ragni giganti, perché ogni tanto qualcuno prova ad andare ad abbattere degli alberi e appena fa due passi di troppo nel folto della foresta non torna più, oppure scappa e riesce a raccontarci di questi ragni giganti, per cui... Ma i ragni attaccano tutti o quelli che cercano di abbattere gli alberi? Quelli che entrano nella foresta, i ragni non è che sono creature che cercano di difendere la foresta, semplicemente se qualcosa entra nel loro territorio lo considerano una preda.